stata fatta un'inchiesta approfondita e ha portato a un nulla di fatto. È lo stile dei dirigenti che viene fuori. Mi preoccupate voi, sinceramente. È un affaticamento, come sono stati milioni in ogni sport. Primi e secondi in qualifica qui, primi e secondi in gara qui, hanno vinto anche a Singapore, quindi definitivamente le ultime 3 o 4 gare sono state molto dominanti per loro. Tutti convocati di Carlo Genta. Archeggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi, tanta voglia di ricominciare abusiva. Bellissimo. In questo abbraccio c'è veramente tutto, c'è la Siena di questi 6 anni, l'ultimo possesso di questa partita e dell'Olimpia che è stata brava a ritornare qui a Siena, ma la Montepaschi aveva questo appuntamento con la storia, vincere il 6° titolo consecutivo che arriva in via ufficiale in questo momento. Italia sì. Italia sì, Italia no. Dico Prandelli e richiamo in causa Carlo Sassi, perché Prandelli, per chi non lo sapesse, era colui che teneva in gioco Turone nel famoso gol, non gol, della sfida Juve-Roma, valida per uno scudetto 82, cos'è? 81 mi sa, con la famosa battuta di Dino Viola, una questione di centimetri. Era, ma è vero che Prandelli teneva, perché questo venne fuori dalla Moviola, Carlo? Sì, no, la Moviola dimostrò che il gol era irregolare. Sì. E allora? Che Turone era oltre la linea di Prandelli. Ah. Quindi, poi però sì, a Roma, con un marchingegno particolare, dimostrarono che invece non era in fuorigioco. Ah, il che non era vero, perché hanno, non dico barato per l'amor di Dio, ma hanno messo? No, hanno, hanno utilizzato, cioè, una prospettiva. Non era perfetto quel macchinario che ha dato questo responso, assolutamente. Quindi l'hanno un po' acchittato pro domo proprio. Infatti, così. Ma Turone era in fuorigioco effettivamente. Oh, finalmente una volta per tutte chiudiamo la questione. Tombale. La questione è chiusa. È chiusa. Turone era in fuorigioco, ecco. Buongiorno a tutti, signori miei. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Il paese dei cachi o il paese dei tarocchi? Io questa puntata la chiamerei così. A proposito, se vi ricordate qualche altro tarocco famoso, venite qui, 800 24 0024. Io sono in compagnia del mio amico Luca Chiabotti, prima penna del basket sulla Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao a tutti. Perché vorrei uscire di qui alle 3 del pomeriggio e provare a capire se la società che ha dominato il basket italiano per quasi un decennio, ha vinto 6 scudetti consecutivi, come nessuno mai abbia imbrogliato delle carte. Abbiamo letto il tuo articolo l'altro giorno, plico anonimo, tra l'altro capitato anche tra le tue mani, e c'è questa storia che ti prego di riassumere, giusto a beneficio degli ascoltatori, per capire di che cosa stiamo parlando, tarocco o non tarocco. Ma questo plico anonimo raccoglie delle carte che si possono raccogliere in camera di commercio, quindi non stiamo parlando ufficiali. Sono ufficiali, sono alla luce del sole. Perché è stato un plico anonimo? Il motivo è perché il falco, il corvo che c'è dietro ritiene evidentemente che la Federazione Italiana Pallacanestro dovrebbe indagare su queste carte pubbliche, quindi non ci sono intercettazioni, carte uscite dai processi, non c'è niente, di un'operazione fatta dalla Mensana Basket, sponsorizzata a Montepaschi, di cessione del proprio marchio, Allora, praticamente alla fine della scorsa stagione la Mensana si è trovata con 5 milioni di debito che dovevano essere ripianati per potersi iscrivere al campionato. Questo modo per ripianarli sono stati dei soldi prestati sempre dalla Monte dei Paschi di Siena, quindi diciamo da quelli che normalmente li sponsorizzano, solo che invece di andare in capitale, come era successo altre volte, con sponsor che davano dei soldi, così avevano evidentemente la necessità di fare un prestito che non è previsto dalle norme regolamentari per ripianare i bilanci. Quindi cosa hanno fatto? Perché dovrebbero ripianarli i soci. Dovrebbero ripianarli con del capitale i soci o i proprietari. Loro hanno venduto questo marchio a una società terza per una cifra, è questo che lascia magari un po' perplessi, di 8 milioni di euro per il marchio del Monte dei Paschi. La Monte dei Paschi ha finanziato questa nuova società, la banca ha finanziato questa società, e quindi praticamente c'è stato un giro di soldi che ha permesso alla Monte Paschi di vendere un marchio e quindi di avere capitale per poter rifinanziare il proprio bilancio. Poi la Monte dei Paschi avrebbe riaffittato il proprio marchio e sarebbe stata la squadra a restituire i soldi alla banca. Tutto questo è un'operazione ovviamente lecita, alla luce del sole, fatta da tutte la gran parte delle squadre di calcio. Ad esempio a Siena l'ha fatto la Robur l'ha fatta con il Monte dei Paschi, però per cifre tre volte superiori. L'hanno fatto il Manchester United, l'ha fatta il Paris Saint-Germain, ci ha provato a guardare dentro la UEFA, la Covisoc, ci hanno guardato dentro tutti. Quindi stiamo parlando di un'operazione fatta, diciamo, regolarmente. Il dubbio è, ovviamente, a livello sportivo, se la supervalutazione, come è evidente, anche se c'è una perizia di un perito sugli 8 milioni per un marchio della Mensana, questa è una storia tirata fuori dal Fatto Quotidiano in gennaio, che si chiedeva com'è possibile, cioè il marchio che valeva a bilanci passati una cifra adesso vale il 680% in più. Questo è doping amministrativo, questo è un qualcosa che ha portato dei vantaggi alla squadra. Allora, sicuramente sì. Però è un'operazione che hanno fatto tutti. È un'operazione che appunto hanno fatto tutti nel calcio, da quindi d'ora in poi nel basket si può fare. È possibile, sempre che è chiaro che qui ci vuole comunque una congruità di una cifra con questa vendita. È anche vero che se pensiamo a quanto ha venduto il proprio marchio il Milan o l'Inter o queste squadre qua, o se pensiamo al famoso caso che raccontano sempre di una sciarpa messa a bilancio dal Manchester United per milioni di euro, chiaro che entriamo in un mondo in cui rischia di valere tutto. Per concludere, la federazione non interverrà in questo caso perché non ritiene che i suoi controlli possano verificare se la congruità del valore del marchio. Allora interessa che il bilancio fosse a posto, il bilancio era a posto, è depositato in Camera di Commercio, tutte le cose, per cui questo famoso, diciamo, il grande scandalo che dovrebbe portare a qualcosa nella pallacanestro, questo non porterà a nulla perché non c'è niente a cui deve portare. Se poi i controlli fiscali su cui è sottoposta Siena per altre cose porteranno a delle altre considerazioni, irregolarità, questo però sotto il profilo sportivo. Quindi, per tornare alla domanda iniziale, la squadra che ha vinto 6 scudetti ha taroccato per vincere? No, in questo caso è un caso chiarissimo dove possiamo anche un po' sorridere su un valore enorme, ma che tutto per il momento sportivamente sembrerebbe a posto. Dico sembrerebbe perché poi qui si apre la grande cosa di queste operazioni fiscali un po' borderline, siccome non le possono fare tutti, se in realtà permettono a una squadra di vincere e un'altra di perdere. Poi dopo il traffico ti faccio un'altra domanda e aspetto gli ascoltatori. È 800 24 00 24. No, perché c'è anche la storia di a chi è stato ceduto questo marchio, questo brand, per quale cifra, quale capitale sociale aveva questa società di Rimini. Ci fermiamo. Questa lettera non mi piace. E perché non ti piace? È stata impostata qui, in paese, questa notte o stamattina presto. Guarda l'intestazione. Un'altra lettera anonima. Puoi andare. Vai, che fuori aspettano notizie. Allora, va. Salutiamo, dottore. Tutti convocati. Dunque, ecco che torniamo con Luca Chiabotti, di cui leggo un brano dell'articolo scritto l'altro giorno. Curioso, stiamo parlando della Montepaschi Siena, di questo caso della cessione del marchio, un marchio che improvvisamente valeva il 684 in più di quanto iscritto a bilancio nell'anno precedente. Ebbene, curioso, scrive Luca Chiabotti, che è qui con me, che uno degli ultimi atti della presidenza di Giuseppe Musso nel Monte dei Paschi, in un momento di acque già molto agitate per lui e la banca, fosse stato un finanziamento di 8 milioni ad una società di Rimini, cui di fatto è stato ceduto questo marchio, la Brand Management SRL, capitale sociale 10.000 euro per l'acquisto dell'utilizzazione commerciale di un marchio, appunto, per un valore, si leggeva, del 684 in più rispetto a questo storico a bilancio. Quello che mi domando io, se ho un'azienda che ha 10.000 euro di capitale sociale e vado a... No, non da Mussari, vado in banca e dico mi date 8 milioni, secondo te me li danno? Ma no, evidentemente no, e su questo chiaramente si basano tutte, diciamo, le teorie, perché io credo che qui in questo ambito a noi interessi capire sportivamente, poi in campo come queste cose possono, e evidentemente no. Ha detto che, e questa io ripeto un po' quello che mi è stato detto da persone, avvocati della federazione, così, che non voglio, a cui non voglio mettere virgolette, però faccio loro queste spiegazioni. In questo caso si tratta di un finanziamento dello sponsor alla sua squadra, quindi non scalda gli animi, non c'è niente di strano. Certo è che poi certe volte lo dai a una società di Rimini, altre volte lo dai ai dipendenti taroccando le cose. Evidentemente uno in questo caso è abbastanza chiaro, perché in altri casi potrebbe essere anche difficile poi fare seguire il percorso dei soldi e vedere che cosa intanto succede, quanti ne spariscono, quanti vanno da una parte, quanti, certo, riemergono da un'altra parte, perché poi sono queste società che vengono create, spesso vengono anche create per i contratti d'immagine, tutte queste, certo, cose. Quindi qui il mare magnum. Abbiamo sentito dire molte volte in tanti polizieschi: segui il fiume dei soldi. Esatto. Diciamo, qui è un fiume molto grande, un fiume molto grande, talmente grande che si vede dove va e dove passa. Altre volte magari non è così. È carsico. Esatto. Saluto e ringrazio Marco Belinazzo del Sole 24 Ore, che ben conoscete. Ciao Marco. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Allora, una tua lettura di questa vicenda, aggiungiamoci pure se vuoi la Robur di calcio, una tua lettura di questa vicenda, presunto doping fiscale oppure no? Beh, più che doping fiscale io lo definirei come una sorta di doping contabile, e quello che fa un po' storcere il naso è il fatto che nei mesi in cui accadeva quell'operazione su MPS, Ramo Basket, col merchandising appunto ceduto a questa azienda di Rimini, avveniva in maniera ancora più consistente per il calcio, perché il brand del Siena Calcio, che ha valore contabile di bilancio erano di circa 15.000 euro, vengono venduti nel marzo del 2012, ancora quindi con la gestione Mussari, per 25 milioni, quindi Siena Calcio fa una plusvalenza di 25 milioni. E seguendo appunto il filo dei soldi si arriva a constatare come questo ramo d'azienda, appunto i marchi, vengono acquistati da una società di consulenza, società di consulenza che ottiene, guarda caso, un finanziamento da MPS per acquisire di fatto questo brand, e all'interno della compagine societaria di questa società, appunto, ci sono anche... Marco? Gli hanno sparato? Qualcuno l'ha fatto fuori. No, adesso stava, ci ricolleghiamo con Marco Verinazzo. Stava parlando troppo. Poi c'è chi ci scrive, ovviamente, Cragnotti pagò lo scudetto della Lazio e Mendieta con il bond Cirio, se non fu illecito quello, oppure non stupiamoci più di tanto di questi giochetti, la Che Bolletta, sponsor di Cantù, a marzo non ha ancora versato un centesimo per la sponsorizzazione di Cantù e ci ha lasciato quelle pezze al culo fino all'altro ieri, scrive Luca, questo non so se sia vero. Sì, sì, verissimo. Certificato. Devo dire, vabbè, anzi, meglio dire che queste operazioni... un po' strane, ecco, questo credo che sia un problema che ad esempio nella pallacanestro si vede in questo momento, che a furia di permettere un certo tipo di cose si avvicinano al nostro mondo delle persone che hanno bisogno di fare certe cose o comunque che non, ecco, è quello, tengono lontano quelli seri veramente, tengono lontani quelli seri veramente, perché uno serio, se sa che viene in questo mondo e non trova magari dei debiti che sono stati occultati da anni, deve pagarli lui, poi dopo si trova in un mondo tra virgolette comunque drogato, e se fa le cose come dice la legge viene anche preso in giro, sta lontano, va da un'altra parte, e quindi la parte buona dell'imprenditoria, la parte buona dello sport, salvo chiaramente, è chiaro, tanti casi eccellenti, però dico, è più facile attirare persone che devono fare speculazione, certo, e che non sono, certo, appassionate o seriamente interessate a promuovere il proprio marchio con uno sport. Certo. Marco, sei ancora vivo, vero? Assolutamente, sì, rispondo alla convocazione. Sì, no, pensavo ti fosse successo qualcosa di brutto, che avessi parlato troppo, no. Assolutamente no, sono blindato qui. Sei blindato. Insieme dai carabinieri, scherzo. Stavi dicendo? A che punto, insomma, avete avuto la possibilità di seguire quello che dicevo, ma la cosa appunto strana, inopportuna, è il fatto che la società che ha acquisito appunto il brand fa capo poi alla stessa famiglia Mezzaroma, che è proprietaria del Siena, e il Siena ha stipulato con questa società una sorta di contratto di affitto per 20 anni a 1 milione all'anno, in pratica ripagherà l'affitto dei brand, e quindi lì è evidente che c'è stata soltanto l'esigenza di fare un'operazione contabile per riportare inutile il bilancio del Siena Calcio, che si è chiuso il 2012 a circa con un attivo di 1,8 milioni. Si dirà poca roba, ma guardando gli scenari di perdite di tutte le società, si capisce come questo attivo sia stato ottenuto, diciamo, in maniera diventa tanta roba. Adesso ci mettiamo anche io, te, Luca Chiabotti, e inventiamo un castello di carte di questo tipo, no, perché non esiste che i soldi li fanno solo gli altri. Stefano da Livorno, poi Alessandro dalla provincia di Venezia. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io premetto che non vorrei portarvi fuori argomento, perché la mia domanda ci porti dove vuole, siamo qui apposta, una domanda relativa alla tecnica, sì, nel senso che la sensazione che abbiamo sul campionato di quest'anno è che con questa riduzione un po' generalizzata del budget, eccezione fatta ovviamente per Milano, la figura dell'allenatore sia riemersa in maniera prepotente, e questo non vale solo magari per i primi due, quindi Vitucci e Sacchetti, ma anche per lo stesso Banchi e anche per tanti altri. Ecco, volevo un pochino un'opinione da voi riguardo a questa cosa. Le lascio quella di Luca Chiabotti in un minuto, e poi sentiamo la borsa e poi andiamo da Alessandro, provincia di Venezia. Ma sono d'accordo, è chiaro che quando hai meno soldi devi far fruttare di più quello che hai, e quindi il ruolo dell'allenatore, di cui si pensava si potesse fare a meno negli anni passati, soprattutto a un certo livello, sta venendo fuori. Noi, grazie a Dio, in Italia abbiamo una grande scuola, e quindi si vedono. La cosa bella, ad esempio, di Sassari, che dice: abbiamo un progetto, noi vogliamo far divertire la gente, abbiamo preso un allenatore e lo teniamo per 5 anni, perché questo incarna il nostro progetto. Non è più come si faceva magari troppo spesso: vediamo quello che costa meno e lo prendiamo. Stavo leggendo un po' dei tantissimi sms che arrivano come questo: sono stanco di vedere come ricchi rubano, oltre alla corruzione dobbiamo supportare massoneria, mafia, favori tra potenti, assistenzialismo eccetera. Basta, abbiate il coraggio di incazzarvi. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo con Luca Chiabottico vicino a me, Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore al telefono e Alessandro Lestia lì, dalla provincia di Venezia. Non ci abbandoni, a dopo. Tutti convocati. Italia sì, Italia no, Italia pum. La strage è impunita. Puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè. C'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida. Allora, la terra dei cachi cantavano, come abbiamo detto, le storie tese, il paese dei tarocchi, come stiamo, non so, dicendo, immaginando, ipotizzando. Io vorrei chiedere, vorrei dare la presenza ad Alessandro da Venezia, che è lì già da un po', poi salutiamo anche Marco Bellinazzo dopo una domanda. Alessandro, dica. Salve, volevo chiaramente farvi i complimenti per la trasmissione. Grazie. E niente, volevo dire, io sono un amante del basket, no? Io sono qua di Venezia, qua adesso c'è una realtà molto bella, anche grazie al presidente Brugnaro, c'è proprio un settore giovanile, tanti giovani che amano il basket, è una cosa bellissima, io ho due figli che fanno basket. E voglio dire, io ammiro tantissimo anche la gestione tecnica di Siena, perché sono veramente competenti e su questo non ci piove, e molto bravi, l'abbiamo detto un miliardo di volte negli ultimi sei anni, sì, molto bravi. Comunque, al di là di questo, volevo dire che anche con l'ultimo SMS, in effetti, cioè, come cittadino, cioè, veramente, cioè, questi escamotage finanziari non vorrei che nascondessero come al solito dopo alla fin fine, cioè non è che i soldi li metta Mussari col suo conto corrente, alla fin fine o li mettono i piccoli risparmiatori o alla fin fine quei monti bond, la banca senese dopo si rifà sullo Stato e quindi alla fine paghiamo sempre noi. Sì. Questi escamotage finanziari, cioè, se li pagassero loro non ci sarebbe niente da dire, ma alla fine ho paura che dopo li paghiamo sempre noi, allora non mi va bene. E questo mi sembra il punto importante che si aggiunge a questo messaggio. Ecco come si è creato il buco da 4 miliardi del Monte. E ora devono ripianare tutti gli italiani che si fa questo sistema Siena. Le banche non sono come i privati tipo Armani, non dovrebbero buttare i soldi dalla finestra, perché dopo chi paga siamo tutti noi e non solo i tifosi di Siena. Oreste da Treviso, giro queste considerazioni a Marco Bellinazzo prima di salutarlo. Beh, il rischio c'è, i Monti Bond però dovrebbero in qualche modo garantire i correntisti e in generale i contribuenti, qualora appunto la gestione di Siena, scoperti questi problemi, insomma, tornerà a virare, come dire, su una sana e prudente gestione appunto dei soldi dei cittadini. Detto questo, lasciami concludere, Carlo, con una semplice osservazione. Noi facciamo giornalisti, guardiamo i conti, guardiamo il bilancio e segnaliamo quello che ci sembrano operazioni quantomeno inopportune. Detto questo, da un paio d'anni sia il basket che il calcio hanno firmato gli accordi con l'Agenzia delle Entrate. E quindi diciamo ci dovrebbe essere un monitoraggio molto, molto serrato, e ci auguriamo appunto che questi scamotaggi siano sempre più un ricordo del passato. Beh, vediamo, speriamo nel futuro, non ci resta che quello, no Marco? Grazie a voi, a presto. Grazie a Marco Bellinazzo, le regole vanno rispettate. Detto questo, dal punto di vista sportivo, a me che il Monte dei Paschi butti i soldi nel calcio e nel basket non interessa. Se il principe spende per il Paris Saint Germain, meglio per loro. Tarocco e frode sono il gol di Turone, a rigore di Ronaldo, non certo aiuti amministrativi. Non sono d'accordo con Luca da Milano, poi domani riparleremo del gol di Turone e di questo presunto magheggio che c'è stato a Roma, che poi non ho capito se sia stato da parte della Rai di Roma, da parte delle TV romane, però vedremo di chiarire anche questo gigantesco tarocco che ci ha fracassato non so cosa per una trentina d'anni o di più, però sono cose divertenti, no, Luca Chiabotti? Questa è bellissima, bellissima. Se mi posso permettere. Cioè, spaghetti maroni per... Cioè, poi per, vorrei dal, capire dal, la tecnologia dei tempi. Siamo, a quest'ora siamo nel 2013, sì, no? Qualche anno è passato e dall'81 ne parliamo. Con la tecnologia di quei tempi, però, ecco, avendo fosse... magari lavorato nelle tele private di allora, posso dire che questo mi sembra talmente difficile con i vecchi meccanismi, però fantastico, questo è proprio bello. Bisognerebbe chiedere, magari lo faremo ad Aldo Biscardi. Sì, però non bisognerebbe rivelare questi segreti, perché... Non bisognerebbe... No, bisogna lasciarci col... Ma, scusa, ma se si aprono dopo un po' anche gli archivi della NASA, vuoi non aprire quelli del calcio italiano? Massimo Napoli, buongiorno. Buongiorno, scusi, volevo fare un piccolo intervento solo per quanto riguarda la rivalutazione dei marchi nello sport. Sì. Bisogna tenere presente una cosa, che spesso queste società sono molto vecchie e quindi perciò hanno un valore basso nell'ambito dell'attivo del valore del marchio. È l'esempio, per esempio, che può capitare un'azienda che da anni possiede un immobile, un albergo, è normale che all'inizio lo possa avere a un valore basso. Quindi secondo me la questione da fare, quindi, e poi logicamente una volta che lo vende o vende solo l'immobile, varrà sicuramente molto di più di quanto lo tiene in bilancio, perché con l'ammortamento e con tutto lo tiene a un valore basso se la società è molto vecchia. Secondo me la questione che va fatta è proprio l'attacco della perizia in sé per sé. Io per esempio nel mio caso pratico ho trovato il valore del marchio Iveco, sto dicendo Iveco, quindi non un marchio qualunque, che la Fiat ha passato ben 3 volte in 3 anni con valutazioni sempre maggiori, sì, logicamente perché gli conveniva. Ora, secondo me, quindi, il problema non è tanto dire il marchio lo tiene in bilancio a 15.000 euro e ora vale 8 milioni di euro, perché potrebbe anche essere possibile. Ora è proprio andare a attaccare il perito, andare a attaccare la perizia e vedere come si può valutare un marchio sportivo 8 milioni di euro. Sì. Perché un marchio che vale 8 milioni di euro deve essere un marchio che mi fa vendere tanto di immagine che deve poter recuperare questo eccessivo costo che ho nella perizia. Massimo, questa perizia naturalmente esiste perché è prevista dalla legge, quindi si è presentato regolare perizia di terzi. Certo, no, Luca? Certo. Quindi mi sembra, non so poi se ci siano, se c'è stata qualche falla nei controlli della Covisoc, ma forse ci spingiamo oltre. Quello che mi domando io è se si dovesse adesso scoprire il vaso di Pandora dei contratti con i diritti d'immagine, lo scrivi anche tu in questo articolo, perché un punto è quello che abbiamo sentito, che abbiamo spiegato, sarà un'operazione borderline ma difficilmente attaccabile e soprattutto che non porterà conseguenze dal punto di vista sportivo, come tu giustamente dici. Poi sono anche curioso di vedere come il neopresidente Petrucci affronterà questi casi. Ascoltatore chiamava da Napoli: negli ultimi anni nella pallacanestro abbiamo assistito all'iscrizione di società tecnicamente fallite da anni e che sono state comunque ammesse ai campionati di competenza, no? Sì, sì, certo, poi giocando sulla differente tempistica dello sport e di questi controlli si è fatto passare molto, quasi tutto, diciamoci la verità. Sì. Edoardo, provincia di Frosinone, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire su un articolo letto questa mattina su Sole 24 Ore e fare un plauso al presidente De Laurentiis per il bilancio che da qualche anno segna, diciamo, delle note positive. Quindi incoraggiarlo, andare avanti così, sono un tifoso del Napoli, e che possa anche con un maggiore coraggio magari fare qualche investimento più importante per gli anni futuri, anche considerando che in quel consiglio di amministrazione, dove tra l'altro ci sono 4 componenti della sua famiglia, distribuiscono 4 milioni di euro di benefit, quindi mi auguro che sia un po' più coraggioso il presidente e ci possa far togliere qualche altra soddisfazione, rimanendo sani sempre i bilanci. Perché ridi, Luca? Perché noi dello sport, e ci metto dentro tutti, siamo un po' maledetti, perché da un certo punto vogliamo vedere delle società sane con dei bilanci sani, ovviamente, ma poi da tifosi speriamo sempre che queste società comprino dei giocatori e chiaramente magari rischino anche di indebitarsi un po'. Quindi è una particolarità dello sport, che qui sorridiamo, ma è proprio questo, cioè sì, è proprio questo il busillis, che spesso noi siamo quelli che criticano per un bilancio non a posto e poi spingeremmo da tifosi perché si comprassero dei giocatori. Quindi insomma è un po' la legge dei nostri sport. È un po' la legge dei nostri sport, paese dei cacchi. Esatto. Tutti convocati. Cos'è un night long? Io Luca Chiamati stavamo parlando di altre. Cos'è sta roba? Ma sì, perché io sono grandissimo fan scatenato del giocatore più grande della storia e ho chiesto a mia moglie che se secondava la decisione di Lionel. Fino all'ultimo mi ha detto che Lionel non gli piaceva, poi mi ha fatto la sorpresa e ha accettato quello che avevo in testa io. Perfetto, calcia già destro-sinistro, l'hai visto com'è? Alto, magro? Ma sicuramente come il padre, perché come quell'altro è impossibile diventare. Speriamo di no. Era Cassano che ha chiamato il figlio Lionel o Lionel, come si dice? O Lionel Ricci o Lionel Messi, comunque speriamo che diventi come il padre. Speriamo diventi più forte. Sì, sì, molto più forte. Dunque, anche Cassano si è beccato a proposito di grano, come sapete, 11° gol l'altra sera contro il Tottenham e arrivano 200.000 verdoni previsti dal contratto. Mica male. Mica male. Non gli ha messi Montepaschi in questo caso. No, adesso non esageriamo. Non esageriamo. Pantaleone, provincia di Avellino. Buongiorno. Sì, buongiorno. Scusate, sono un vostro ascoltatore da quando è nata la trasmissione. Bene. Complimenti per la trasmissione. Sono rimasto un po' sorpreso perché non parlate più di quel giorno, accadde ieri, quel giorno non so come si chiamava, quel giorno di tanti anni fa, quella finestra che aprivate sullo sport in generale. A me piacerebbe sentire per esempio quelle imprese di ciclismo. Quando ero piccolo compravo calcio e ciclismo di Emilio De Martino, della Cuneo Pinerolo, dello scambio della borraccia tra Coppi e Bartali, della gara finita in parità di calcio Italia e Inghilterra. Piacerebbe sentire quelle cose che fanno tanto bene al cuore. Vi ringrazio. Grazie a lei. A me fa bene al cuore però anche guardare avanti e magari scoprire cose nuove, diverse, con il massimo rispetto per la nostra storia sportiva passata che tutti quanti veneriamo, però insomma guardare a un futuro che adesso nello sport italiano e nel basket in particolare non mi sembra particolarmente avvenente, è una cosa che mi interessa assai. Per esempio Luca Chiabotti, Petrucci, Minucci, sì, ci sarà un confronto? Ma, o magari un duello? Chi comanda il basket italiano in questo momento? Ma io credo che il ritorno di Petrucci abbia spostato decisamente gli equilibri della nostra pallacanestro sulla federazione rispetto al passato, perché lui è entrato con tutto il suo prestigio di presidente del CONI uscente, tutti i suoi agganci politici, il suo prestigio, il suo modo di fare, e tutta la pallacanestro italiana che si trovava francamente in braghe di tela e in un momento di stasi ha trovato un po' in lui quello che arriva e sistema un po' tutto. Forse non ha capito che per sistemare un po' tutto il presidente deve per prima cosa mettere le mani anche a questi problemi, perché la canestra italiana ha bisogno di una credibilità che non ha più, tant'è vero che le ultime cose che sono uscite coi pacchi anonimi, le intercettazioni, i basket top, tutte queste cose qui, quindi bisogna mettere che già l'anonimato, l'anonimato è già una cosa brutta, già dice tutto del livello che ha raggiunto un movimento. Se succede perché una larga parte ritiene di non essere stata tutelata o che se non si sono fatta chiarezza su determinate cose. Quindi per tornare alla domanda, non credo che ci siano né contrapposizioni né particolari problemi. L'unica cosa è che in questo momento le società che hanno sempre tentato in questi anni di fare un po' i loro comodi, si trovano un antagonista che Dino Meneghin non voleva essere, probabilmente, sì, perché uomo del, chiamiamolo, privato, uomo che viene diciamo dal suo modo di vedere le cose, dall'azienda, così, ha sempre avuto molto più ha pensato di poter che il movimento si gestisse un po'. Sì. I risultati hanno portato a questa evidenza in cui ci vuole un potere forte, federale, pubblico, politico, e quindi credo che lì ci saranno degli scontri forti. Sì, se il presidente... Tutto questo, la Lega Basket in tutto questo dove si colloca? In questo momento la Lega Basket si colloca in un momento silente di osservazione del nemico o presunto tale, e secondo me senza la necessaria forza per far qualcosa. Del resto non ha fatto molto neanche in passato, e quindi è difficile farlo adesso, appunto, con questo tipo di antagonista. Credo che le società in questo momento siano troppo prese dai loro problemi per pensare a grandi orizzonti, mentre la pallacanestro italiana ha oggi più che mai bisogno di mettere la linea, far la linea, far vedere chi può farcela, chi non può farcela, risistemare le persone al proprio livello, pulire un po' quello che c'è da pulire e ripartire. Se no, è un'occasione, e se no, francamente... Beh, guarda, sono almeno 7-8 anni che comunque anche diciamo... Anche di più diciamo, non l'abbiamo mai voluto fare. Per fare una citazione di queste cose, dei bilanci, non dei bilanci, il primo ad alzare la mano con le società fu il presidente dell'allora Lega, Alfredo Cazzola, stiamo parlando di 14 anni fa, e disse: ci dobbiamo dare una regolata. Sono passati 14 anni, non è successo nulla, lui pochi mesi dopo non era più presidente della Lega. Guarda caso, Andrea Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo parlare, io sono il tifoso di Livorno, riallacciandomi al discorso fatto in precedenza. A Livorno noi sono anni che grazie al nostro presidente stiamo valutando se è migliore o peggiore, che dir si voglia, l'ambizione da tifoso o la rassegnazione da commercialista. È una cosa che Spinelli non ci fa mancare nulla da questo punto di vista, perché sono anni che non tira fuori un euro, tira fuori un tollino, esatto, e da questo punto, ogni tanto deve dare qualche scommessa, ci fa divertire, però insomma il 70% del fegato è messo male, Mi sembra un'analisi perfetta. Un'analisi ineccepibile. Speriamo bene, no? Questa sera. Forza Livorno. Grazie Andrea. Ma in realtà noi usciamo dal solito concetto che in fondo le società dovrebbero essere, si chiamano società SRL, in realtà dovrebbero essere veramente. E qui proprio il busilis della questione, non dovrebbero dipendere da una persona sola, da una banca, da uno sponsor, dovrebbero avere una base per vivere e poi poter fare degli investimenti mirati. È un po' però da noi un po' una chimera, questo sì, sicuramente. Certo, è una chimera, anche perché insomma ne parlavamo prima, anche sta storia dei contratti d'immagine, che è pubblica, no? Lo sanno tutti, in Lega viene depositato un contratto molto più basso rispetto a quello stipulato col giocatore, e la restante parte, con risparmio fiscale notevole, viene pagato quando viene pagato come diritti d'immagine. Ne parlavamo prima, in Spagna questo è pubblico, è tra virgolette regolare, esiste una percentuale precisa, dice il 25% del contratto può essere pagato in questo modo, sulla restante parte scordatevelo, qui è tutto molto più aleatorio. Sì. Sì, sì, qui è tutto molto più aleatorio, fino a quando poi... Jungle. Sì, jungle totale. Qui sì che chi ha più possibilità di fare certe operazioni viene veramente facilitato, e quindi può avere giocatori, e poi tutto si spiega col fatto di poter schierare dei giocatori più forti. Vedere i bilanci delle squadre, noi abbiamo un certo pudore perché non pubblichiamo mai i bilanci delle squadre, perché secondo noi sarebbe come mettere un cartello: venite a controllare cosa stiamo facendo. E siccome tutti, come diceva prima i tuoi ascoltatori, siamo tifosi magari non della squadra ma comunque della pallacanestro, del calcio, di un movimento, il cartellone venite a fare i controlli, facciamo un po' fatica a tirarlo su. Tanto abbiamo anche un tweet dell'amico Stefano Valenti che scrive: il problema resta uno, i controlli non possono controllare quel che dovrebbero per poter dire se un club è in salute oppure no. Quindi questo è il tweet che ci lascia Stefano Valenti. Senti, io voglio chiudere con un'altra domanda che poi mi dicono: ogni giorno non perdete occasioni per parlare di soldi facili. I soldi facili, sognando voi stessi, date spazio allo sport, siete banalmente venali. Per carità, Maurizio da Como, ogni giorno parliamo di sport, ma ci piace ogni tanto parlare anche dei suoi problemi, se no va a finire Totti in nazionale, Totti col Brasile, Totti in Brasile, possiamo farlo, lo facciamo tutti i giorni, ci divertiamo un mondo, però qualche volta vale la pena anche di guardare a cose un po' diverse. Luca, tra 15, 14, 13 secondi chiudiamo, così ho spazio e poco. Chi vince lo scudetto del basket? Mi piacerebbe vedere una finale Varese-Sassari per quello che stanno facendo fino adesso, e per il divertimento, per il coinvolgimento, per il bel gioco. Non credo che avverrà, nemmeno io. Grazie a Luca Chiabotti, Franco Piantanida e Roberto Scaltretti. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao. Quel giorno accadde ieri, quel giorno non so come si chiamava, quel giorno di tanti anni fa.